non ci ha seguito la portanza, vuol dire non ce l'ha quel canale. Mm. Avanti già. Eia, eccomi qua. Cinco, con chi sei? Siamo scappati dalla portanza. Poi adesso te la stanno mettendo anche la portanza. Sei su e vi draga già lui, eh. Che gusto, cazzo, che guasto. E cosa ci vuoi fare, Manuè? La mamma dell'imbecille è sempre incinta, oggi. Eia. Oh, te lo ricordi? Mi tutto gonfio. E quando quel motorino che mi si è trovato giù di lì in culo. Chi è? Sono piccetto il radio, sei tutto distorto. Ragazzi. Tu come lo senti già? Tutto quanto distorto, tutto fuori frequenza. Come ti ho detto? È un po' meno. C'è un alimentatore che non sta andando bene. Chi sei? Franco. Franco, come mai è tutto così male? Che... Quale? È la latte dolce. Ma quella con l'eco, o fra? No. Ce n'era una all'inizio che era un bel forte la portante. E c'aveva anche l'eco. Comunque mi ha fatto piacere conoscerti, fra. Ok, grazie. Avanti già. Io la stavo cercando, non so se la stazione base, ma bassa però, fina, non grossa. Perché ci deve stare dove devo metterla io. Oh, Franco, quando ci ripensi un microfono mi serve. E bene, un ne di un altro. È troppo, che è troppo cannuta. Lo so, vabbè. Che microfono tu? Microfono a tavolo. Io c'ho solo microfoni, diciamo, di adesso. Non ne ho di quelli tipo Tamer, non ne ho. C'ho le MV5 e Sabetta. Anche se non sono di adesso, però non sono dell'era del Tamer. No, Franco c'ha veramente una bella statuccina e cantate questi miei microfoni che uno non me l'ha dato, quello da fare. No, io non l'ho fatto, non c'era, però... Poi già, c'era tutti in fila, in processione, già. Ehi, c'è molta gente che ha questa mania di microfoni, a me non è che mi interessa più di tanto, mi interessa anche quello che funziona nel mio apparato e buco. Vabbè già, ma io sto dicendo quello, non vi fa intendere, fra. Sto dicendo che io non ho molto interesse a avere la collezione dei microfoni, ecco, quello lì, non c'è manco spazio per metterli, capito? Sì, domino. E ne prendi, se perché? Sì, se ce l'ha fatto, ma che è stato California, no? No. No, Franco California già sta entrando, ma non è lui, è Franco di Sorso. Franco Califano tu stai dicendo. Lui. Adesso un po' che non andiamo a pescare, ma quando andiamo a pescare che c'è già divertimento. C'è una cosa mi ha chiamata, io ma non si vede, andiamo a pescare, non so cosa vuole a pescare. Grazie. Vabbè. È stato sempre partito dalla pesca come me, anche Torino già si faceva, andava con i filaccioni a monocattare, te lo ricordi? Gronchi, cos'è orate, cos'è una giubilato? Poi più un me. Ehi, quel polpo che le hanno detto questo è un paracadute! Tu non vecchi appesato me, scia poi. Anch'io andavo al settimo pettine, con tre canne da lancio a 4,50 m, all'aite, la sedolina, il busavo, andiamo qualche panino e via, pizza di 2-3 manzano, però andavo la sera verso le 9, un bel bagnato ce la davo via, allora aspettavo io. Io dalle 8 sino alle 11. no, l'ho dato dove andavo io, all'ultimo pettine praticamente, dove ci metteva quella frutta, mi dopo la marina del sosso. C'era la sinistra, ci ho piazzato la grande grande, ci devo fin giù, posteggiavo. Lì era, toccava, prendevi i mormoroni, prendevi i pizzi comunque belli. Poi rimaneva un'ora senza toccare, poi di nuovo, che pesce crano, che madrone. Una volta non so che pesce era, c'erano tre cani, tutti e tre me ne ha fatte muovere. Ho preso anche una salpa, io li ho preso, un palazzo, cos'era? Una spezza, una razza. E la razza era giubilato un bel, anche al presidio militare, ne ho preso, non grandi grandi, però li ho presi. Franco, prova a parlare, Franco. Stai di nuovo strappando, non ti sento bene, fa. Ok, non ho telefono allora. Tienilo così che va bene, fa, se no non ti sentiamo. Okay. Comunque, fra, il mio numero ce l'hai. Quando ci vedi, sì, ce lo sai. Quello lì, quello lì, comunque guarda, io te l'ho pagato, lo stesso quello che hai pagato tu, non c'è problema. Anzi, io do 10 euro in più. Ma quello che mi hai dato 70 euro me la... è duro, me lo puoi vendere. Che non ha giocato a Fusaro. Se fa posteggiare è proprio di fronte c'è la banca, insomma sapete. E una volta mi sono salvato anche la multa, mi sono salvato, per carità. Sì. Ma perché ne ha Fusaro di quei microfoni? No, perché la prima lì. E come si chiama? MB più 5. Com'è già? M più... MB più 5. B come Palermo? No, come Bari. MB come Bari, ho capito, più 5. Sì. No, ho avuto le SMI io. Non ho avuto con l'Italia più 3B da tavola, va bene. Le B più 2, al mare, no, non di quello lì. Roger. Adesso te lo faccio sentire il MB più 5, però questo qua è modificato, questo che c'ho io, attacco la tappata e te lo faccio sentire. Provo attaccando, dai. Comunque, fra, a me mi viene più vicino, vedi a casa tua, che andare a Fusaro. Oh, gna, vabbè. Manuel. Allora, questo affare lo vuoi fare con me? Chi ci deve attaccare qui? Ecco perché io ti vedo, la macchina mia senza motore, ma non c'è che là. Ma non ti nate, se non ho una cosa che funziona, una cosa che funziona, buona, nuova, cazzo, che si è rigraffata, cosa vuoi di più? E va un mese di canale che si vede tu. Tutto c'ha, e manca solo la parola. Non è normale come lo vendono, eh. Poi quando lo vendono, quando lo occupi ti dico cosa devi fare. Ah, così è. Ehi, perché c'è una lamella interna e quella lì bisogna toglierla e metterli l'ovata e metterli in mezzo la capsula. Se poi puoi cambiare la capsula ancora a mezzo, metti quelle verdi da coso, da citofoli, come questa che c'ho io, va bene. Questo qua è l'MVP5, non so se ti piace, boh. Forte come radio. KK, ci vuole un ponte cambiare la capsula, la modifica è quella, togliere quella lamella che c'è interna, mettergli dell'ovatta o del cottone e metterci la capsula all'interno del cottone, tutto lì. Ma del citofono che c'è giù nel portone o quello che c'è dentro casa? No, vanno bene anche quelle, presente, quei telefoni Sirio bianchi. E Sirio bianchi, proprio. Sì, ha detto lì, già c'eri quell'era, sì. I telefoni bianchi della Sirio, basta andare da quel mercatino delle Pucci, chissà che hanno tornato. E tu la capsula da dove parli, la metti lì, e va bene anche quella. Affetto. Vabbè, quando la prenderò mi direi, ci vediamo e direi tutto quello che devo fare. Al limite, cosa ne so, vai a qualche amico tuo che c'è un citofono, entri con una scusa, mi incazza con me e ti ammazzo. Ehi, un viraggio, sei tu che ti vai in buca. No, tu me la procuri a me. Al Milano di Galli la battella si bagazza. Ehi, per una cornetta la negarina, ma... Oh, yeah. Comunque sono anche quei citofoni normali che costano a cazzato 20 euro, mi. Ma... Sele con bianchi. Sì. Scusa, ma non posso più comprare una capsula di ceramica? Sì, sì, prendi quella, la paghi però. E vabbè, cosa costa? 10, 15, 20 euro? A Fusano si vendono. Oh, io Marco voglio andare a Fusano che è più distante e più volete mandare chili, po'. Già, le vendo. Che cosa? Quelle capsule. Sì, penso di sì che ce l'abbia. Quelle verdi devono essere, dove tu fai le saldature deve essere verdi, capito? Ci sono marrone e verdi, quella verde devi prendere. Vabbè, quando vedrò il microfono vi avviserò. Ehi, ha sentito che me lo hai detto? Manuel. Va, stai perdendo un affare più grande di te. Adesso hai detto una grande fesseria, ho poco spazio. Questo è leggermente un piccolo del tuo. Ti sto regalando anche io l'alimentatore da 15 ampere, cosa vuoi? O da 25 ampere, cosa vuoi di più? Ti sono tutto completo, cosa vuoi di più? No, ti do anche un gelato cornetto, bene va. Oggi io ti do un calippo. Sì. Avanti già. Ehi, questo preparato lo sto vendendo a 120 euro. E che cosa? Il microfono. No, potremmo un microfono 120 euro, dai. Ma che sto scherzando, non lo vendo. Sto scherzando. Non lo vendo perché va bene per questo apparato. Vabbè, se te l'hai preso, te l'hai modificato, l'hai fatto per quello lì, non penso che sia così, ma prendetelo, che senso ha? Appunto. E vabbè, cava. E questo qui è l'EBV più 5. Ti conviene l'EBV più 5 perché puoi regolare i toni, c'ha anche i toni, invece che l'EBV più 4 prendi l'EBV più 5, perché c'ha anche la regolazione dei toni e dei volumi. Ah, quello che c'è lo svito stai dicendo, sì. Eia. Quello che c'è Franco. Penso di sì. C'ha praticamente il modulatore, quello lì è, non è lo svito. Il modulatore in base a come esci, la lancetta si muove, capito? Se esci forte, la mia va a fondo scala quando parli. Oh Franco, ci compaccia anche via adesso. No, non da fare, è tuccio. Poi ne ho modificato altri due anche, uno del Midland normale, gli ho messo la capsula di quelli di un altro microfono, che pompa forte. E poi quella del Cobra che ho modificato lo stesso. Ma guarda, la torta è stato Luca, quello del monte, azzugnavo forti, l'ho amplificato ma forte. Poi non parliamo anche di coso? Giovanni Capri 2, signor radio. Ah, Gianni Capri 2. ma lui ci ha a fare coso, lo show. Potente. E lo stesso che ci aveva il suo guasto di governo, di Don Diego. C'aveva anche Gianfranco, ce l'aveva. Attimora. Ma è un microfono un bel grosso, a me non mi piace l'estetica, è largo, ci vuole un bel spazio per quel microfono. È alto, tu in pratica grigio, è grosso. Stai uscendo di nuovo male, Fra. Stai trappando. Mica ti rubino l'apparecchio, Fra, non usare sottoalimentare. E usati un altro apparecchio, ce l'hai già? Adesso è meglio, ti riesco a capire. Già va bene. Cremici 60 va bene. No, tu non le dai. Torino. Eia. Ho visto un tipo che aveva le MC 60 sul Galaxy Saturnetto. E come usciva? Non lo so, perché l'ho visto su uno di quei... Stavo vendendo le Saturnetto con le MC 60. Ma c'era anche il prezzo? Sì, 300 euro. 300 euro? Sì, ho 350, 300, adesso non mi ricordo bene. 350, È troppo, dai. Che sai benissimo, adesso puoi trovare il Saturnetto. Sì, ma solo le MC 60 costa 170 euro nuovo, 180. Sì, ma la volta che tu prendi sopra la mano già. Secondo chi ce l'aveva, io dico anche questo, quello vuol dire molto. che c'è una persona che ci tiene tolto, allora sì. Ma se secondo chi ce l'aveva e l'ha toccato dentro, ui ui ui. Quello già è vero. Poi ci sono dei microfoni tipo tane, le cose che stanno arrivando senza capsula dentro, li tolgono la capsula, cazzo, vai a usare, non funziona. Ti ha preso senza capsula dentro. È vero, me, per carità, guarda. Come quello, non le funzionava la ricezione del baracchino, alla fine apriva il baracchino e ci si mancava l'altoparlante. E ti ha fatto, Emanuele, non sarà che te la stessa cosa, no? Sì, sì, è vero. Anche a Riccardino da poco hanno fregato, gli hanno mandato il tanno il T3 senza cosa. Se hanno preso la capsula, la parte buona, grazie, adesso a camuffarla, a metterne in un'altra di capsula, ma cazzo, lasciarlo senza, proprio l'hanno fatta sporca. Beh, non lo conosce, cosa tira della testa, scusa. Ha preso uno stock, c'era tutto, c'era TAM, c'erano altri microfoni, e uno di questi era così. Che gente che è. Mi sarebbe andato nella fascia del culo. Sì, altri continenti, quindi di là, ma una fascia di lui, lascia perdere. È gente che sa che poi la fa franca, capito? È da fuori, prendiamo la Sassari. No, allora io da fuori non prendo niente così. Ui! Sì, è vero. Gente, è truffaldina. Infatti io solo porto... solo in contrassegno pago, basta, non ne pago più roba così, l'apro davanti al corriere, controllo, se c'è la roba di qui, ok, se no si tira la busta da lì, secondo che corriere tu, però te la fa aprire. E appunto, se no non te la fanno aprire assolutamente, se no non li tiro nulla. Anche io controsegno, ma controsegno già, la maggior parte è tutta posta in fee, a mia nipote l'hanno fregata, 400 euro, posta in fee. Ehi, la mia moglie l'hanno fregata 150 euro, però poi è riuscita a farsene tornare, ha fatto una domandina, le poste, dopo un mese gliel'hanno tornata. No, la mia nipote non è riuscita a fare nulla, anche andando a certi posti, perché è maestra di scuola la mia nipote, la fustizia, l'hanno fustizia, ogni lacrimone poveraccio. L'hanno fregata anche un amico mio, ha comprato una macchina fotografica Canon, che qua che costa 1300 euro, l'ha trovata 800 euro, e siccome io ho sempre fotografato, me ne intendo un po', mi ha detto, secondo me com'era, a casa ha detto quella la di 60 è molto buona come macchina, ce l'ho anche io, gli ho detto. Mi ha detto, va bene, adesso questo amico mio se l'ha già ordinata, se la sta prendendo, adesso la prendo io. Aspetta, da dove la stai prendendo? Con cosa stai pagando? Con Western Union? No, gli ho detto, non le prendere con Western Union, che hanno fregato 200 euro a me, che hanno fregato, a me la maestrale. Proprio per il Saturneco, c'era questo, stavo vedendo il Saturneco con MB più 5 nuovi di zecca. Avanti di magazzino e ci regalava le BB più 5 assieme a Saturneco, invece non ti arrivi domani usa. Che fregatura, ragazzi, hai visto la zitta la televisione? Non so se ieri ha detto oggi, non ricordo, però concerto di Vasco Rossi, una fregatura di 500.000 euro, certo, migliaia di persone sono al concerto, vera nulla. Ah, vero, e hanno comprato i biglietti da internet. Sì, sì. Non ci credo. Se hanno fatto i soldi così, guarda, sono, a me ve l'ha spiegato, io sono andato alle scomposte. Perché erano 400 euro, 200 di San Antonio Maestrale e 200 mila, perché stavo lì a tutti lo stesso apparecchio. Questo dice che aveva 4 o 5 Saturneco avanti in magazzino, non li ha avuti due. Non me lo dimenticherò mai, ma se ti troviamo già al telefono, bravo, butta via i soldi così, mi ha detto, cavolo, una ferita, gatta nel cuore. Io mai, mai e poi mai mi sono mai fidato una cosa del genere, quindi. Guarda, avrei preferito fare un viaggio io, almeno mi faccio un buon viaggio, a tu per due ci avrei detto, no, vai ci mi ha messo, non ho preso, però mi sono fatto un viaggio. Ma a comprare così, no. Le prosegno non le fa quasi mai nessuno, io cercavo questo apparecchino qua, fatene cercato. Mi contattavano, quello del segno è no, FP, attaccate la curva. Io l'alterna me la sono fatta rubare in contrassegna, ho pagato un po' di più, ma non me ne ha fatti nulla, me la sono sicuro. Capito? Avanti, tra. Ciao Fra, stai bene, salutone, attrizio ti bene, giustamente, certo che dispiace se ti bruci lì, ma avanti, già. Sì, ah, ciao Fra, hai trovato il venditore? È quello che c'ho io. Quello lì è tra le protezioni, se ti carichi troppo ti è tra le protezioni, lo sapevi, sì? Sì, ma no, non è Mediaglo che mi sa di nome, tu? Non lo so, il contrassegno se ne fa ancora Mediaglo. Ah, li fai, ti carichi un apposto qui, praticamente ti metti solo i soldi giusti per quell'apparecchio lì e basta. Prego, prego. Positivo, buonasera a tutti, da tutta la ruota, sono io Fra, sono io. Ma non è che ti serve Fra, un alimentatore, non è che ti serve? Ma perché, da quanto ti serve questo alimentatore? E allora, ma non lo trovi a 50? Io l'ho comprato, allora io ho fatto anche i grossi alimentatori, ce l'ho già da diversi anni. Io l'ho presi quelli switching, quelli senza niente, senza scatola, senza, come si dice, senza. Ho preso anche una pinucetta al muro e porta il chivo. Per il chivo e lo porta benissimo, l'ho preso da 50 ampere e lo porta alla grande. Lo reguli a 13,8 o quasi a 14 e va bene. Quelli vanno bene e spendi poco e vanno benissimo. Se no ne prendi due da 30, ne prendi due da 30, li accoppi assieme e c'hai 60 ampere. Lui è capitato proprio qui dove non servi a te, io ce li ho qua accoppiate, ho fatto un casino, guarda, c'ho 150 ampere, ho costruito io, 150 ampere a 24, 120, diciamo a 28, e non varia, io c'ho lo strumentino lì, gli ho comprato, gli ho messi, e ho visto che non varia mai, io ce l'ho anni e anni, non è che ce l'ho un giorno, ce l'ho da anni mi questa cosa. È positivo, perché io ce l'avevo dentro questa tournée come? Io ho fatto la tolto quello pesante che non era tanto sembra così questa tournée, ecco, gli avevo messo uno di quelli lì, capito? Ci avevo messo uno di quelli da 50 appositamente, ma lo pilotava bene il mio Saturn Echo, ma bene veramente. L'avevo messo apposta perché ci voleva, avevo tolto quello pesante suo e gli avevo messo uno di quelli lì, messo, me l'aveva fatto, vabbè, un amico me l'aveva fatto sua Inglesia, e gli avevo messo uno di quelli all'interno, ma andava, era consigliato mettere uno di quelli, e andava alla grande. Aspetta un attimino, ma quanto va ti dà quella radio? Perché tu fai qua, c'è dei picchi allucinanti, parti da quasi da 1 quando non moduli e ci sale a 9, vuol dire che sta uscendo, che c'ha picchi di modulazione e quando c'ha picchi la radio, capito? Lo so che sei un vatto, però c'è dei picchi allucinati, fai da 1 a 9, lo so com'è da Gianni e da Tonino, ma tu fai dei picchi allucinanti. E come attrappando gli ultimi passaggi. E da quanto è quello? Da 30 da 30 ampere? E prendi un altro, non te l'hai pagato, poco i soldi, e prendi un altro e li accoppi tutti e due assieme, capito? Li accoppi assieme e fai 60 ampere, vedrai che è altri volume quanto ti piace tu. Ciao Fra, sistemati tutto, dai. E io ne ho fatto parecchi, ne ho riparato di quelli alimentatorini tolti da quelle macchinette videogiochi che erano rotte, e ho ho fatto un casino, ho fatto un sacco di cose, ho un mucchio gatto, ho fatto delle cose grosse, le ho tutte abbinate, anche 10 assieme ne ho messo, ho fatto mettere molto anche il camion, gatto. Eppure vanno. E cappa. Guarda, me ci sei, c'è sta cazzo, Gianni. Sì, ciao Gigi, mi hai sentito anche a te, stavo per addormentare, cazzo, stavo riposando. E vabbè, comunque niente, io sto valutando sempre col 2009 e la 2025. Gigi, come arrivo a te? Proprio 9 più 30 sei tu. Cavala, va bene. Quindi non li prendi, anzi facciamo girare per cosa, ma come si chiama? Non mi viene nominati. Emanuele. Ehi, Emanuele. L'ho chiamato, non ha risposto. Ci sono dormito di poletto. Perché della Gigi ce ne ha parecchi da vendere? A chi? Gigi Vulcano, vedo se c'è a Parigi. Gigi, chi è tu relativamente? Ma quelle che ho io, soltanto a te non ti interessano, non li vuoi quelle che ho io, capito? Io queste che ho sono modificate, radio normali, anzi ho quelle che ti ho detto, ti ho elencato stamattina, non è te che te le ho elencati, poi gli altri sono tutte roba modificata, là. L'ho fatto in passato. E a me stagione fissa mi interessava. Tu mi hai già detto quello che ti interessava a 220, ma no. Io ho dato il Saturneco che era bellissimo, di Gianni già l'ha ascoltato e tanti ce ne svolte, io ho fatto dei lavori, allora faceva quasi sui 30-32 watt i picchi ci aveva, e con 4 watt arrivava a picchi di 30-32, c'era una bella radio, ho fatto dei lavori io, ma dei lavori fatti. Poi sul Saturneco sì, ci ho messo le mani tantissime volte, lo so fare andare di radio e di modulazione, ma la grande proprio. No, io il Saturneco non ce l'ho. Ripeto, non voglio apparati che ho già capito. Mi sto facendo un piccolo museo, diciamo, dai. Gli apparati, te l'abbiamo detto stamattina. Sì, allora, sai cosa ti volevo dire? Tu, allora, io l'avevo, non era normale il mio, era tutto elaborato, e poi quei lavori li ho fatti io. Era tutto elaborato, dai, avevo fatto farlo ascoltare regolato dall'esterno, gliel'avevo fatto io, gli avevo fatto le tonalità delle voci che riceveva il pomello e regolavo più grossa, voce più grossa, più chiara. Ho fatto tutti i lavori che gli ho fatto io, più la scheda Colt, tolta la scheda sua, quella che c'ha lui originale, quella dell'Eco, tolta, messa la scheda Colt, messo, cambiato l'alimentatore all'interno e messo quel switch da 50 ampere a 220. Tanti lavori che l'avevo fatto, dai. Sì, ma stazione Pisa proprio Nisma. Io sai cos'è? Io facevo il camionista, capito? Ho fatto il camionista per 40 anni. E abbiamo la stessa età, perché ho sentito che tu devi compiere, io compio a febbraio comunque, al prossimo febbraio, non so quando li compi tu, e siamo dello stesso anno, quanto ho capito. Non penso, se tu compi a febbraio, io li compio quest'anno a settembre. Ma io ho capito, sei 5. No, io sei 6. Ah, sei 6. Ah, ma anche io se sei le faccio a febbraio, però siamo quasi lì. No, tu sei 54 allora. Io sì, del 54, tu ricopri l'altro anno a febbraio. 55 sono io a febbraio. Io sono 54 settembre. E siamo là, siamo vicini, un po' di mesi di differenza, ma siamo lì vicini. Sì, sono 5 mesi per fare la differenza, tutto qua. Gianni, anche Gianni da 60, dai. Non ti addormentare, Gianni. E io ne ho 60, non li nascondi gli anni. 60 ne ho e 60 dico io a me. Io a 60 anni sono andato in pensione già, quando ho compiuto 60 anni sono andato in pensione. Lo so. avanti o ci devo andare? Mi mancano 2 anni. Oh, cioè, maestro, tu non stai facendo niente? No. Tu fai un viaggetto con me mercoledì? Oh. Devo andare a Nuoro. Io. Yeah. Devo fare una visita, cavolo. Non la farò fare lì, se la piglia quel paese, a Sasso non ce n'è. Tagliare Nuoro, è meglio Nuoro, perché posso passare a trovare mio figlio che è a posata. Ma a San Francesco devi fare? No, l'ospedale che c'è in Piazza Sardegna, numero 1, a Nuoro. No, secondo me, io sono dove San Francesco di Nuoro, ospedale San Francesco ci sono stati. Partiamo presto, io parto verso le 8 metro, non ho più tardi. Cavagaro. Sì, va bene, ciao. A che ora devi tornare? La sera. Allora. Perché? No, non fa allora. No, perché c'ho il cane, non fa. Chi lo porta giù, chi fa da mangiare, no? Io pensavo in giornata, in mattinata. No, non ce la faccio mai, perché la potete ce l'ho preso giorno a Nuoro io. Anche io ho 2 cani, però c'è diverso, io ho il cortile, c'ho tutto capito, tutto recintato, si mette a mangiare per quanto. Ok. No, non ho fatto, mi dispiace. Vabbè, pazienza, arrivo a posare, prendo mio figlio e lo porto con me allora. Solo che se c'è del casino a farmi una visita, boh. Io avrei preferito pagare 4 se farla qua. No, gli devo dare vita, capito? Non per altro, perché io non pago le visite, queste visite qua. Io sono esempio. E tanto è che non va a trovare anche mio figlio, tra l'altro. E questo foglio mi serve a 1000 per 1000, perché io ogni anno la faccio la visita. Questo foglio mi serve per entrare subito a lavoro. E tra l'altro mi serve anche per all'Atalanta all'Inps, perché mi serve di ogni anno, e se io non ce l'ho un casino. No, io faccio la visita ogni 3 anni, sono esempio anche io, e ho pagato 140 euro per fare, come si chiama, la risonanza magnetica, perché in tutta la Sardegna non c'era un posto. No, no, sto pagando 150 risonanza magnetica, c'ero il giorno 9 a Frattamolo, centro benessere. No, non c'era posto, tu dici, sto dicendo, quando chiamo a te non c'era posto, e mai mi serviva, perché devo presentare la domanda per l'invalidità, e quindi mi serviva quel documento lì. Ho capito. Sì, ma allora, praticamente la risonanza magnetica, che paga 150 euro, a me mi rimborsa fondo estero all'80%. Che noi siamo sovvenzionati con la ditta, capito? Anche io ce l'avevo fondo estero. E io pago tutto, quante mai. Anche tu se non sei malato, quante noi. Ma te la paghi. Meglio, allora meglio che paghi a Gandano. È meglio che ci siamo. Comunque ho pagato 26 euro. Ho pagato 26 euro, perché non c'era posto a Nuoro, non c'era posto a Caglia, non c'era posto a Ultima, non c'era posto da nessuna parte. Chiami fra 6 mesi, chiami fra 1 anno, non ve la rubo, e fino che poi ho trovato un amico che faceva le risonanze magnetiche lì a Plattamo, la prima era a Sassari, poi con la tempestazione le faceva lì per un periodo, ho insegnato un po' di gente lì. Trovata quello lì, una cosa e l'altra, parlando una cosa, la sera mia al bar, mezzo bevuto pure era, sono andato a prendermi il caffè, l'ho trovato lì e mi ha detto, ma aspetta, dice, vuoi andare al Ghero? Come io vado al Ghero? Vado pure a Nuoro, solo che non c'è posto. Chiamato al Ghero, dice, c'è mio cugino così che deve fare, se venga domani mattina alle 10, tra una vista e l'altra glielo faccio, un amico suo questo qua. Al Mazzaro sono andato con Edo Mattessi, sono arrivato lì, avevo l'impegnativa del dottore, ma dice, vai a pagare il ticket, ma a me non c'è registrato, sì, ma mi è andato questo dottore Tizio e Caio da su, dall'R fatto, sì, pagato 26 euro, salgo su, non ho aspettato nulla, visita, fatto tutto la mattina, codice rosso, e fatto subito l'intervento, quello che dovevano fare, chiamato, 4-4, vedi, e telefonando, e cose, ero 2 anni io telefonando non riuscivo a prendere un appuntamento, è bastata una parola di un amico che lavorava lì in ospedale che ho risolto tutto il problema. Sì, ma anch'io, guarda, chiamato tante volte, al CUP e praticamente alla fine dice, guarda, ci sono solo 2 posti, andare in Nuoro, faccio in Nuoro, io se abbia luci. Mentre risonanza magnetica non c'è posto, a tombare il vostro pagamento. Ho telefonato al centro benessere a Protavona e quando ho telefonato, i primi di questo mese, detto, il giorno 9 venga alle 17.40 e gliela facciamo, 150 euro, Roma e ho chiamato anche a fondo est, sì, mi rimborsa l'80%. Devo giustamente riportare sia il foglio dell'ortopedico che mi sta ordinando la risonanza magnetica e più risonanza magnetica, poi faccio le fotocopie via email, gliela mando e ciccia. Sì, ma tu hai capito, oh Giacomo, è successo a me. Io non ho pagato neanche, non ho neanche pagato, ho pagato il ticket normale senza essere prenotato nel nulla. 26 euro, non ricordo, ho pagato 20, mi pare 26 o 23, non mi ricordo. Lì e lì Alghero sotto dove c'è paga il ticket. Poi non ho pagato altro, ma hanno fatto tutto. Lo so, quando conosci gente così. Anche io tante volte sono passato dove c'era gente che faceva la fila e sono passato prima, mi hanno chiamato. Dove conosci gente, già, però lì non conoscevo nessuno, l'ho fatto da Urigo, la risonanza magnetica l'ho fatta da Urigo, 140 euro, te l'ho fatto fare 10 euro in più. No, questo faceva le sue pensioni. Faceva la risonanza, era lì a Frattamona, quando hanno aperto Frattamona era lì, era lui che faceva le cose, capito, ha insegnato un po' di... e poi se n'è andato del tutto, perché lui è andato in pensione prima che iniziassero lì a Frattamona, però ha continuato lì per insegnare un po', per fare queste risonanze, e poi siamo andati in pensione, giustamente questo conosce gente, ecco, io mi sono, l'ho detto a lui, come glielo ho detto, ha telefonato a questo... Tette, professor Tette che c'era lì all'ospedale di Alghero, e subito ho messo in contatto con questo Occhioni, c'è questo, fatto subito, ma in 448 senza perdere tempo. Oh già, a me Urigo non me l'ha fatto fare. Perché? Perché mi ha detto, se misuri la circonferenza dell'ombelico, se non lo schiacci sdrai in casa sua, sul letto ci misuri, mi dia la misura. L'altra misura, no, purtroppo lei non può entrare nel macchinario, ma va a far culo, la cazzo macchinaria mette. Ci mi sono entrato io. A me mi ha detto mezz'ora facendo quella risonanza magnetica, in una posizione che era scomodissima perché mi stava avendo il crampo a furia di stare dentro. Sì, anche quello dello stare civile non l'ho fatto a me. Ci stai giusto giusto con le braccia giù, attaccate alle gambe e non ti devi muovere neanche un millimetro perché tocchi. Ci vediamo con le platamona, sia quelli moderni. Cazzo, a mezz'ora e io cercavo di resistere, alla fine non ce la facevo più, credimi, ero sempre nella stessa posizione e mi stava venendo il crampo alla gamba. Sì, anch'io sono stato una circa mezz'ora. Tutto dentro il tubo e la testa là fuori. Sì, è così anche lì. È così anche lì. Sei dentro il tubo, la testa è fuori. Sì, non si è chiuso del tubo. Ehi, spero che con il platamone sia leggermente più comodo qua. Ma tu più grosso di me, sì. Tu. Ma io come ti ho visto l'altra volta, per me non siamo limpi. Io guarda, peso 98 kg. 98, te lo dico tranquillamente. Sono entrato tranquillamente, non mi ha fatto nessun problema. Sì, ti ho preso 88, però tu sei più alto di me. Forse tu c'è più pancia, non lo so. A me piace mangiare. Io penso che non ci sia nessuno che non le piace mangiare. E ho visto che non perdiamo poi. Io ho preso 45. Ah, tu sei proprio... Ma io non ho fatto la mangiata di putti e insalata oggi, uiuia. Ma vai, ti ho chiamato, non mi hai risposto. Ma me l'ha tentato anche, ma me. Stavo chiamando... Niente, chi ti ha mangiato di boipo? Grazie, mi. Almeno regalaci fuori putti anche a noi. Io ho già mangiato pesce spada alla pizzaiola, ma buonissimo. Cappa, c'era il pesce... Allora, sono andato a prendere le pescherie lì a... E c'era anche il pesce spada, e poi ho preso il... non ho chiesto neanche il pesce, ho visto che lo stavo aspettando, lo stavo mettendo, però ho preso, non ho voglia di mangiare i polpi, capito? Pagato caro, ma la sorte, mi sembra pagato 11 o 13, adesso me lo ricordo, comunque ha fatto 26 euro quasi, un chilo e otto di polpi, 26 euro ha fatto. Ehi, sono cari i polpi, ma anche il pesce spada. A 22, a 18, dipende dalle giornate. Preferisco andare a pescarmelo io, a filaccioli con la sardina e lo biglio il boico. Ah, pensavo il pesce spada. No, troppo. E l'altro che lo pescava con la zappa di gallina, portato giù tipo un vecchio, era prepotente. Se c'erano le canne in acqua, lui voleva che spostassimo le canne perché lui passava a bordo del molo con questo filaccione e con la zappa di gallina la faceva muovere, no? e voleva che spostassi tutto, ha trovato un ragazzo prepotente, le ha detto anche io devo pushare a gara, tu fai il giro e peschi dopo di me, perché devo stare io a spostarmi, a fare, ogni volta pure anche mi cavavi i ganni quando passava Edo. Un anziano, ma non c'è cartella prepotente. Ce l'avrei avuto a moglie, vai, ci mi metto. Oh già, te lo sto cercando, io un brutto se lo trovo, un galasso brutto. Ce l'avevo, sai che ce l'avevo, ma era troppo spinto quello mio e l'ho dato anche per, me l'ho dato, ho sbagliato a darlo. Però voglio uno verginello che poi me lo devo sistemare io. Lo sto cercando se lo trovo un brutto. Io non so chi ce l'ha. Se devi guardare, se non per quei siti. In quei siti che ci sono dei baracchini, roba del genere, amico CB, tutti quelli lì. Lì li vendono, mi pare che ne ho visto uno di brutto. E chiappa, dai. Quello che c'è tutto lì, no, quello è un finale solo, c'è un 1969, non è a due finali con, mi sembra che è un finale solo, è quello, invece tutto c'è a due finali 1969. Stiamo parlando di quale baracchino però? Il Conne. Ah boh, non lo so, guarda, te lo scontro a Marti, no, non mi interessa quello di proprio. No, ti ho detto, a mio figlioccio se facciamo un cambio, non avremo già mai un baracchino che va a carezzare. E il mio è superiore a quello che c'ha lui. Cioè, a mio figlioccio glielo darebbe volentieri, ma io niente, mi vuol dare che ci facciamo, ci non te ne conto. Ecco te, aspetta, ma quello che ha posato a tuo figlio, cosa c'ha il baracchino, quello lì? No, mio figlio non ne ha baracchina posata. Allora ha detto figlioccio, ah, figlioccio forse hai detto. Figlioccio, sono così matto io. Ah, è tuo figlioccio, non tuo figlio quello che ha posata, giusto, così è. Aspetta, c'è confusione. Mio figlio è a posata, non è CB. Mio figlioccio è qua, è frequenza, Manuele, 5. Ah, boh, non lo so se neanche se lo conosco. Manuele, via avanti. Sì, no, è Gigi Vulcano. Ma non arriva da me. Perché sono da mattinino, capito? Stavo parlando con quel gente, sicuramente non mi ascolta. No, non lo sento proprio, infatti non lo sentivo, no. No, ho detto che l'ho abbassato un po' l'antenna io, non l'ho portato più all'altezza che ce l'avevo, mi sa che ricevo di meno così, non lo so. Dov'è lui? Che lui è a Cacere stesso? Sì, a Lima Delta lui, a Latte Dolce, e sta usando un antennino. Ah, sarà per quello allora, dai. Ti sta di nuovo prendendo la voglia, Gigi. E di che cosa? Perché non sto facendo nulla, però se sto facendo... E tu lo sai com'ero io, quando io lavoravo, io viaggiavo in camion, io ero dalle 4 e mezza del mattino acceso sino alla sera quando finivo, se ti ricordi tu era così già me lo ricordo, sì, ma dopo ti è fatti i lavori a casa, non è riuscito a far nulla, no? No, questa preparazione va bene, ho attaccato un po', ho capito, ho attaccato un po' e niente, capito, però a casa c'è sempre la trazione, voglio, ce l'ho sempre, capito. Solo che ne ho eliminato un po' perché ne avevo troppi, capito? E ho tolto tutte quelle radio che ci avevo in più, che io non me ne facevo nulla, qualcosa ho dato a, diciamo, quelle di cosa, ce l'ha Claudio, se aveva preso Claudio, radio che io tanto non usavo qua, però radio per lo professionale, da essere radioamatori, non radio... Ne avevo una tua, se ti ricordi, quella radio, poi l'avevo data a Claudio stesso, che avevi venduto tu, con l'MC60, ti ricordi quella radio lì? Io te l'ho venduto uno, no, io a te non te ne ho mai venduto. Ah, tu non mi hai venduto un 440, e non mi hai venduto tu, non era il tuo, l'MC60 nuovo, in scatto, non me l'hai dato tu. No, io 440 non ne ho mai avuto, 140 ne ho avuto 3 che fa. Era il tuo? Vabbè, succede, perché poi... Gianni, il portantista di turno ha colpito di nuovo, ti ha coperto. Cosa ci vuoi fare? C'è gente... Semmi, ma non perché è così potente? Oh, sono quelle storie, o sto usando roba potente, è attaccato o è vicino? Ma penso più attaccato. È attaccato, sì. Anche a Gigi se l'ha messo, l'ha portato, e non ho detto nulla, così almeno lui credeva di non disturbare, invece tu hai detto che... lui a scappare. E allora è colpa mia, scusatemi. Ah, no, frega, no. Te non c'è più. Io ho fatto finta, capito? È positivo, già. Vedo che, no, che non è cambiato niente, comunque già no, è rimasto tutto. Non so se ce l'ha ancora, comunque quello che avete, non so se hai ascoltato. No, è che la mamma dell'imbecille si è principita, capito? Ah, ho capito, ho capito. E quindi ne sforano ogni tanto. Già. Eia. Comunque non c'è problema, già ti ascolto. Sei un po' abbassata. Sì, vabbè, non c'è problema. Io non ne spreco corrente a attaccare niente. Gigi. E io sono qua sempre io. Io so che si riprende. Vediamo un po' se ti tratta bene. Beh, Gigi Vulcano. Sono rimasto così in assolto. No, ho detto prima, non è cambiato niente, vedo che non cambia nulla. Dal passato non è cambiato niente, c'è sempre la stessa cosa, là. Succede sempre la stessa cosa, ho visto. Là. E va bene così. Comunque Riccardi, anche tu quando inizi a crescere, inizi la fidanzatina, lasci perdere baracchino e baracchinetto, vedrai. 27 MHz for life. Ciao Gigi Vulca. Ciao Trattari. Ma quando mai non la smetti di mettere portante? Perché mettevi questa portante alta? Non ho capito, no. Portante c'è. No, tu la stavi mettendo, hai capito? Con un segnale di 7, stai mettendo la portante. Ehi, non avevo altro. Vabbè, e non ti sento una cosa, ma mi si raddorro, Luigi. Oia. Me ne sono alzata adesso io. Mamma mia, quel cuocuomane di Natalino. Cuocuomane sarai tu. No, tu sei il re, ricordatelo. Ciao Riccardi. Ciao zio Natale. Beh, cosa mi racconta? Cosa racconto? Oggi siamo andati a prendere un gonfiabile per la piscina che almeno ti potevi correttare sopra, è gigantesco. Non so se ci stai, no scherzo. Io bisogna che venga lì con la macchina e ti metta la portante sotto al cancello. Sì, che bruci tutto. Vai. Oh, a me me l'aveva bruciato il baracchino, a parte gli scherzi. Mi ha bruciato un amico con lineare attaccato, aveva due lineari 1200 collegati assieme, gliel'aveva fatto un ingegnere di siciliano, Carlo si chiama questo ingegnere. E quando mi è passato a fianco, che io stavo parlando, lui mi ha schiacciato la portata e ha parlato sopra di me e mi ha bruciato il baracchino, me l'ha proprio squagliato. Vedi, lo posso fare a Natalino, grazie Gigi, mi hai dato una buona idea. No, a lui gliel'ha bruciato perché anche lui c'aveva il linearone nel camion. Io vengo senza, comunque 960 ti arrivo lo stesso. Sì, Santiago 1, Radio 1. E se vengo vicino al cancello ti arrivo 960, non ti preoccupare. No, un giorno sono sceso proprio dall'aeroporto e ho messo in tilt tutti i computer, tutti i cosi di quei negozi che c'erano lì vicino dentro il porto, anzi quello che c'era la biglietteria per andare all'Asinara, il traghetto per l'Asinara, la biglietteria gliel'ho messa in tilt, la biglietteria, le computer per fare le prenotazioni e le cose. Gliel'ho messo in tilt, io con il camion fermo lì, avevo il 750, il lineare 750, quello grosso attaccato, stavo parlando sul continente, e gli ho bloccato tutto a questi che sono usciti fuori incazzati, ma non c'è stato, gli ho bloccato tutto con le lineare acceso. Ah no, c'era un amico mio che aveva il vizio di parlare col camion spento, una volta ha crepato una batteria. Riccardo, io c'avevo un supermercato qua vicino e quando l'altro mio e Gianni io entravo, guarda, schiacciavo la portante e bloccavo la, sanno quella, come fanno le comunicazioni, le cose dentro il negozio, e entravo io col baracchino e sentivo a me tutto parlare, bloccavo con tutto e sentivano me parlare al baracchino. E io perché non entravo nel computer del CAF? Mi, Gianni già lo sa, mi glielo già. Poco si vanta Natalino. E ma io ero liscio, mi non ne avevo lineare, figurati con lineare cosa arriva zio. No, io ero, avevo quel 140 famoso già, quello, il Kivu, il 140 con l'MC60, con quello lì entravo nel negozio, però mi disturbava pure la televisione a me, lo sai, quello lì, e entravo con quello, c'entravo in pieno. Gianni, si è addormentato. Non è quello che hai venduto a me, no? No, io no, tu l'hai venduto a me. Il 140 te l'ho detto prima, tu l'hai venduto a me, poi non so se è tornato nuovamente a te, questo non te lo so dire, io avevo attaccato Claudio, sia l'MC60 che il 140, il Kiv, l'avevo attaccato Claudio io, ed era quello tuo, poi se è tornato a te non lo so. No, non mi hai capito, quello che disturbava non è quello che hai venduto a me, no? No, il 140 che disturbava, il 140, il Kiv. Che strano, a me non mi ha mai disturbato. No, poi disturbava, sì, modificati tutti, 48, questo che ho io, quello che ho dato a te, tutti disturbavano. Quelli che erano modificati disturbavano tutti. Probabilmente era l'antenna allora. La mia, era sempre lì l'antenna, c'è sempre. Antenna del televisore. Molto probabilmente. Oh già, dilli quando sono entrato 30 ragazzi di un computer nel CAF. Non posso raccontare la storia che c'è Giacovino adesso. Ehi, comunque è entrato nel computer di questa tipa a cui stava facendo degli apprezzamenti mentre apriva la serranda dell'ufficio. Poi lei è entrata dentro e Natalina stava parlando con me, io da una parte e lui dall'altra, che io con una macchina e lui con l'altra. E mette, ah, Giuvizio, una cosa, venda, va. E mi ha descritto tutto. Quella lì è uscita fuori e ha detto, guardi che l'ho sentita cosa sta dicendo. È successo a Oristano. Anche a Oristano un altro, questo trasporta mangime per galline. Anche quello era vicino all'ufficio, stavano parlando con me due cose. Ha detto cosa della ragazza, della segretaria che c'era dentro, in ufficio, e è uscita fuori, entrando nel computer, lui si era attaccato, si era comprato il magno lineare, quello si chiama 3 ventoline o 4 ventoline sopra, quello lungo lungo, e stava provando, stava parlando con me, e è uscita, la segretaria ha detto, dicendo cosa. E vabbè. Succede. Avanti Riccardino. Vado avanti io. Mi assento il 5 perché ho carro, tallo e mi faccio tuffo in piscina. Ciao a tutti. Aspetta che sto arrivando, Riccardino. Ciao Riccardo. Ciao. Fatti un bagno anche da parte mia. Io mi ho fatto la doccia. Natalino, non t'azzardare. Non t'azzardare, ma adesso, ma te l'immagini già? Non mi vuole fare usufruire della piscina. Ciao, Riccardo. No, perché se so che poi mi rubi tutto e mi bruci, mi fai scoppiare la campagna. se ci provi ti rubo la mantova. Vabbè, ma Riccardo ha fatto il bagnetto, dai, riprendi Natalia. Cappa, oh, yeah, mamma mia, una scena questo di Carmino. È molto astuto, Togo, Sveglio, ma si fa mettere sotto i piedi. È poco così arrabbiato la prima volta, la gente, Riccardino con cuomo, le cazzo, tu, subito si è alzato in acchi dell'aria. Avanti. E tu perché non ti spegni il baracchino quando dormi? Peggio per te. C'è un cuocuoma in questo bombolino. Oh, che utilizzo, mami. Ah, non ridi adesso? Mica non è bombolino. Natalì, non è bombolino. io se indovini chi è? Oh, perché lo sento strano, con questo baracchino sento tutti diversi adesso. È ginco. E forse perché mi sta arrivando basso. Avanti, ginco. Gianni, importante c'è. Ho sentito. Ero ma così. Ti appasso? Cosa? Sì, passi, nel senso che se non ce la portate sì, se no non passi. Mi vogliono costringere a usare. Oh, io mi assento un attimino, dai. Ciao G. Lì la parla giocava a Durucci. Guardi per me. Ciao già, ciao. Luci ne lavara giù cavato. Per carità, ancora vela della portante, bravo. Ma guarda che c'è da piangere, mi. Cazzo che siamo arrivati a torna a essere indietro invece di andare avanti. Oh, che gusto ci prova questo cuocuomane. Appunto, che gusto ci prova. Io e infatti si era più rampato, ma trattarlo così si era più rampato, non avevo così, non avevo né famigliate né intesa a nessuno. Appunto, tanto non passi, non passo? Sì, da qua, da queste parti sì. Ehi, non c'è problema allora, dai. A me magari che la porti da mano, magari non faccio lì. Ehi, ma deve essere pure da me. Ehi, giovane, è un capo di fuma. Sì, e anche Luca usa una cosa del genere, però stai arrivando lo stesso. E K, anda bene Meda. E mi stavo mettendo la parabola, siccome disturbo, no? Le antenne TV del palazzo che c'ho dietro, praticamente a fianco. E allora c'ho le antenne lì, io, in quel palazzo lì che me l'aveva messo un inquilino di quel palazzo. A fare un padrone di casa me ne devo fare fascia a chi non riesce a andare ad Ananzi. Però un cazzo ne vedi in televisione, se non si perde ne accusa la gioia. Ehi, cazzo, sono venuti, mi hanno sequestrato tutto, mi hanno sequestrato, mi hanno buttato la muccia. Cazzo, mi ha denunciato un'altra volta che è partita attorno a Cagliari la denuncia. Cazzo, ma deve essere la nitro andare a fanculo, a chi so che in rigore la varane dito. Quale? Quello che sta davanti? No, quelli del palazzo che c'ho a fianco, che dà su Corso Trinità. Io ho l'antenna sul palo di un inquilino che se n'è andato. E il padrone di casa domani me l'aveva fatto togliere, però come sale il tecnico io sto chiamando i carabinieri. Perché loro non la possono manco toccare l'antenna, li posso pure la fotografia. Come ti chiede vicino all'antenna, come ti è vicino all'antenna, io ho il teleobiettivo e gli faccio la fotografia, cazzo, e lui gli va in faccia, mi dica su faccia di cazzo. A chi segui sul fotografo ti dico una susa, come ti va la giosso, mi sangurone in terra, dai, li posso fare 6 mesi di pidari. Come scende giù lo picchio forte, Manuè. Non sa manco da capace da rivini di colpi. Si usa così di zenni, cudo voci, eh. Io non vengo a raggio la televisione e bampa giù di lì. A chi da voi mi piazza una parabola, è già quasi piazzata. Devo solo rigurarlo del codere, così me la guardo via satellite e la televisione. non ho bisogno certo dell'antenna TV, però lui le mie non le tocca, perché se tocca le antenne il gatto ne risegue le mani. Senti le mani? Se toccate le antenne, cazzo le antenne, cazzo pare che tocca le antenne, cazzo quella di portare a Naura dopo che l'antenna tu. Manuè, ti sto dicendo, lunedì mi metto lì con la macchina fotografica, c'è un teleobiettivo, cazzo, 70-300. Avvi la volta a pigliarli la faccia, da Ugo, leggi i numeri di Sarghi, dai Noghi, i rabbiazzettami.